Continuo a pensare come sarebbe stata la mia vita se avessi accettato quel lavoro 10 anni fa. Più sicura, più noiosa, più serena, non lo so. E se io fatico a farmi una ragione di avere preso una decisione così, mi domando che cosa deve avere passato Agata quando ha deciso di scrivere la lettera a Vincenzo e poi di chiuderla in una scatola nascosta dietro le piastrelle del bagno. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Stefano D'Andrea è una delle persone che insieme a Vittoria, a Tiziano e ad Alessandro lavorano a questo programma. Stefano è un amico ed è una persona che sa scrivere molto bene, quindi lavoriamo insieme dall'anno scorso. Il papà di Stefano invece è un pianista jazz e si chiama Franco D'Andrea. Io non ne so nulla e quindi ho scoperto da lui che era un pianista e poi facendo una ricerca ho scoperto che è uno dei migliori pianisti jazz che ci sono in Italia. Qualche sera fa, dopo che per anni ne abbiamo parlato, lui mi ha detto: guarda, stasera mio papà suona qui a Milano, se voglia di venire fai un salto da noi. Il concerto del papà di Stefano era un concerto di piano solo, quindi era più o meno la cosa che state ascoltando qua sotto, è lui chiaramente che suona. Io, ripeto, non ne capisco nulla di jazz e faccio anche un po' di fatica a seguirlo, soprattutto un concerto di piano solo. Però c'è una cosa che mi affascina terribilmente ed è quello che succede nella testa di un pianista mentre suona dal vivo, in particolar modo di un pianista jazz, perché un pianista che suona musica composta da altri, per quanto sia concentratissimo a suonare qualcosa, sta seguendo uno spartito. Un pianista jazz invece no, sta andando più o meno dove vuole la sua testa. E quindi, dopo aver sentito il concerto e dopo aver chiacchierato un pochettino con Stefano, ho preso il coraggio, sono andato da suo papà e mi sono presentato e gli ho fatto la domanda fatidica: mi scusi, ma lei a che cosa pensa mentre suona? Lui mi ha risposto come immaginavo mi potesse rispondere: più o meno penso a quello che suono. E allora io gli ho chiesto: ok, e che cosa sta pensando mentre pensa a quello che suona? E lui mi ha detto: guarda, io non so dove andrò, io so dove sono nel momento in cui sto facendo quelle note, non so che cosa accadrà di lì a poco, so però in che ambiente mi trovo, so dove sono, so che cosa c'è intorno a me, so dove voglio fermarmi per un po' perché mi sto divertendo e poi passare a un'altra parte. Mi ha detto: un po' come quando fai una passeggiata, no? È un po' come quando cammini in un bosco e ti accorgi che ci sono le piante, quindi le vedi e senti quegli odori, poi passi in una radura e c'è un prato e allora vedi il prato e cammini nel prato, poi la montagna si alza, quindi tu ti arrampichi, eccetera eccetera eccetera. Insomma, conosco quell'ambiente lì. Ecco, quando oggi ho pensato a come sarebbe andata la mia vita se, no? È una riflessione che ogni tanto capita: che cosa sarebbe stato della mia vita se avessi fatto quella cosa o non avessi fatto quell'altra cosa? Quando oggi pensavo a questa cosa, pensavo più che altro a una cosa che si avvicina a quello che mi ha raccontato Franco D'Andrea. Non tanto a quelle boiate tipo meglio vivere di rimpianti o di rimorsi, o non mi ricordo neanche se è il contrario, di rimorsi o di rimpianti, o le robe tipo Sliding Door. No, pensavo proprio al fatto che credo che sapere chi siamo e dove siamo passi proprio attraverso questa cosa qua, cioè sapere com'è la nostra vita adesso anche grazie a quello che la nostra vita non è più. E da qui la domanda: come sarebbe cambiata la mia vita se? 800 24 00 24, 349 238 6666. Fate come al solito, lasciate stare quello che ha detto Franco D'Andrea, magari andate a sentirvi un suo concerto ed è più facile da capire. Provate a prendervi 2 minuti e cercate a pensare a come sarebbe cambiata la vostra vita se aveste accettato quel lavoro 20 anni fa, se aveste preso quell'aereo, se aveste sposato quell'uomo o quella donna, se aveste vinto quella partita invece che perderla, magari se quella lettera l'aveste spedita, questo è il caso ormai che vi racconta qualche giorno, se aveste fatto quel provino che alla fine non avete fatto. Perché avete presente come accade sempre quando gli attori famosi fanno le interviste, no? Il 90% risponde alla domanda: perché hai fatto l'attore? Ma guarda, per caso. No, veramente, per caso. Non volevo neanche farlo io il provino. Io ho accompagnato un amico, no? Niente, poi ero lì e hanno preso me e non hanno preso lui. Non credete, questa è una boiata. Se voi aveste fatto quel provino, invece, come sarebbe andata la vostra vita? 800240024 349-238-6666. Se aveste accettato quella proposta di matrimonio, se aveste seguito quel corso, se aveste imparato quella lingua, come sarebbe cambiata la vostra vita? Se 800240024 349-238-6666. Oggi alcuni mi hanno scritto sul profilo Facebook: Matteo Caccia, io sono qui. Marco, se avessi ceduto alla proposta di una mia spasimante di Verona, ora sarei nel mio maneggio ad allenare i cavalli per la prossima gara. Emanuele, ci penso tutti i giorni. Diciamo innanzitutto che magari se lei fosse stata con me, adesso forse sarei sposato. E poi, se quest'estate non avessi parlato con lui, adesso sarei licenziato. Ma ancora, se il mio coinquilino non fosse partito per l'Erasmus 12 anni fa, non mi sarei mai laureato. 800240024 349-238-6666. Alessandro, se non avessi mai votato Berlusconi, Sacchi, o Sacchi credo, se non me ne fossi andata, adesso non solo sarei ancora insieme a lui, ma avrei anche nuove prospettive di vita e di lavoro. Sandro, se alla fine di quella storia, che poi non è mai finita del tutto, avessi colto l'opportunità di trasferirmi a Sydney per lavoro, chissà come sarebbe andata. Simone, se avessi accettato quel lavoro, non avrei potuto sentirmi vivo in mezzo alla foresta Lacandone. Lacandone? Dov'è la foresta Lacandone? Grazie Vittoria. Vittoria che oggi per l'ultima volta qui in diretta con noi mi cerca che cos'è la foresta Lacandone. Se qualcuno lo sa, 349-238-6666. Ancora, se la ragazza non mi avesse lasciato, sarei condannato a vita. 800240024 oppure 349-238-6666. Come sarebbe andata la mia vita se... Insomma, con tutto questo investigare, secondo me dovrò comprarmi una pipa. Ormai sono giorni che non penso ad altro che a quello che ho trovato dietro alle piastrelle del mio bagno. Dopo aver scoperto la scatola con le lettere e aver conosciuto la storia di Agatha, di Vincenzo e della bambina che non doveva nascere, mi sono appassionato all'idea di ritrovarla e vedere com'è andata. Perché anche io, nel cassetto, ho una lettera che non ho mai spedito. E so come ci si sente. Solo che mi sono spaventato di fronte ai due gemelli, i figli del falegname e di Agatha, la donna che sto cercando. Spero di trovarla ancora viva. Però non ho più piste da battere. Sono fermo. Sì, l'investigatore dell'inutile è bloccato. E allora, mentre aspetto di capire cosa sia meglio fare, io cerco di immaginarmi come sarebbe il mio futuro se io quella lettera l'avessi mandata. Chiaramente non ero incinto. Si trattava comunque di qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita. È andata così. Dunque, appena uscito dall'università, io ho partecipato a diversi concorsi pubblici per i lavori più vari, tipo da dirigente della provincia di Novara allo spazzino, tutti praticamente. L'ho fatto un po' per mettere subito a frutto il titolo che avevo appena acquisito, un po' per cercare veramente un lavoro e un po' per l'indipendenza. Però, a dire tutta la verità, in fondo io l'ho fatto un pochettino anche per non deludere i miei. Mi spiego, non è che i miei volessero che io facessi il dirigente della provincia di Novara o lo spazzino a tutti i costi, però come molti della loro generazione sono particolarmente attenti all'idea del posto fisso, dello stipendio a fine mese e dei soldi sicuri, insomma. Non che sia una cosa strana, sia chiaro. Oltretutto poi in provincia un po' di più che in città si sente molto il bisogno del lavoro sicuro, ma poi non è vero neanche questo, ormai anche in città più o meno la stessa cosa. Insomma, fin da piccolo io ho sempre avuto la certezza che sarei finito a lavorare in un lanificio oppure in posta. Forse anche per quello che poi sono venuto a Milano a cercare di fare qualcos'altro. Ho fatto concorsi per titoli ed esami e sono anche andato a sostenere diverse prove. Un anno mi sono trovato a Torino in mezzo a 400 aspiranti addetti alla comunicazione del comune, proprio nel periodo delle Olimpiadi. E poi a Biella, tra futuri supplenti di italiano alle medie. Ecco, seguire i concorsi, chi lo fa lo sa, è un lavoro praticamente, e io avevo un amico che mi consigliava quali pagine della Gazzetta Ufficiale leggere e quali fossero le corrette procedure da seguire. Così alla fine mi sono trovato ad essere prescelto per fare il bidello della scuola elementare di Trecate. So, fa ridere, ma è così. Non avevo detto niente a nessuno, ma ero arrivato primo. Non so, forse perché ero l'unico concorrente. Insomma, ero sistemato. Avevo passato l'esame dei titoli ed ero stato valutato idoneo. Dovevo solo ricevere formalmente l'incarico, prendere possesso del mio impiego statale e cominciare a incassare ogni mese lo stipendio. Bastava che preparassi questa benedetta lettera di accettazione. La lettera di accettazione è una lettera che va scritta di proprio pugno, dove si dichiara di voler insediarsi in quel posto. Una formalità. Ecco, io quella lettera l'ho scritta e ogni tanto me la vado pure a rileggere, perché non si è mai mossa dal mio cassetto. Di com'è facile andare quando non sai guidare. Di com'è triste il Natale senza mio padre. Insomma, continuo a pensare a come sarebbe stata la mia vita se avessi accettato il lavoro di bidello nella scuola del paese. Più sicura, più noiosa, più serena, non lo so. Solo che se io fatico a farmi una ragione di avere preso una decisione di questo tipo, cosa deve aver pensato Agata quando ha deciso di scrivere la sua lettera a Vincenzo e poi chiuderla in una scatola nascosta dietro le piastrelle del bagno? Chissà quanto ci avrà pensato. E ora che so che quella bambina invece c'è, io vorrei davvero sapere com'è andata avanti la sua vita. Cioè, se quella decisione ha avuto un senso oppure ne ha avuto il rimorso. Se con il senno di poi avrebbe preferito rendere partecipe il suo amante napoletano. Insomma, cerco di immaginarmi dove possa essere Agata adesso. Però non lo so, perché la reazione dei suoi figli quando l'ho nominata mi fa pensare che forse non c'è più. Adesso Agata avrebbe più o meno 80 anni. E poi sua figlia? Che fine ha fatto? Niente, Agata mi sta rimanendo in testa come quando hai appena visto un bel film e non sai bene cosa fartene, perché poi la tua vita normale non è come il cinema e quindi se credi di aver imparato qualcosa poi la quotidianità è sempre uguale a se stessa e tu non cambi mai. Però ci ripensi e quel film ti ritorna in testa. Un po' come quando da ragazzino ho visto L'attimo fuggente e sono uscito dal cinema certo che il mondo l'avrei rivoluzionato. E invece tempo mezza giornata ed era come prima. Insomma, io la lettera di accettazione non l'ho mai mandata e di questo non ho reso partecipe nessuno, nemmeno i miei genitori che ci tenevano tanto. Loro mi hanno visto fallire tutti i concorsi e solo così hanno potuto vedermi ora fare quello che mi piace. Ma a quel tempo ancora non lo sapevo. Lettera di accettazione di incarico professionale al direttore del Dipartimento Scolastico di Novara, sezione di Trecate. Il sottoscritto Matteo Caccia, nato a Novara il 24/7/1975, residente in Milano, dichiara sotto la propria responsabilità A. che non esistono albi professionali relativi all'oggetto dell'incarico, B. di avere sede autonoma, propria organizzazione e attrezzature, C. di accettare l'incarico ed il compenso di euro 950 lordi, nonché le modalità di pagamento previste nella lettera di incarico, D. di esercitare l'attività professionale in assenza di vincolo di orario e di essere nelle condizioni per cui, ai sensi degli articoli, eccetera, eccetera, F. di essere titolare di codice fiscale, Novara, lì, 29 agosto 2001. Firma per accettazione, Matteo Caccia. Chissà cosa sarebbe successo se l'avessi spedita questa lettera. Forse sarei diventato uno di quei bidelli che stanno simpatici ai bambini all'inizio, poi quando crescono non se ne ricordano né per niente. Oppure invece, non lo so, sarei diventato un inflessibile controllore, di quelli che ti restano scolpiti nella memoria, no? Tipo, ah, ti ricordi quando c'era il Caccia nel corridoio? Oppure, ti ricordi il Caccia, quello alto con la barba? Una volta l'ho visto senza grembiule azzurro, oh, sembra addirittura una persona normale. Però chissà come sarebbe stata la vita di Agata se non l'avessi nascosta in questa scatola. E allora sai che faccio? Io vado a cercare Vincenzo. Ho il suo vecchio indirizzo perché è scritto sulla lettera che non gli ha mai spedito. Chissà, magari lui ne sa qualcosa. E poi è pure l'unica traccia che ho. E siccome devo andare fino in fondo, come farebbe Magnum PI, non mi resta nient'altro da fare. Questo fine settimana vado a Napoli. Come sarebbe cambiata la mia vita se 800240024 oppure 349-238-6666? Non fate come mia zia Mina che dice che non riesce a prendere il numero perché lo dico troppo veloce. Ve lo segnate sul cellulare e rimane quello. SMS Radio 24 e telefono Radio 24. Giusto? Giusto, Vittoria? Mi piace Vittoria. Oggi sa di essere la sua ultima puntata, quindi è serena. Però mi scrive, allora, la selva Lacandone, ah giusto, mettiamo i puntini, è dove vivono i Lacandon, un popolo indio discendente dai Maya che vive principalmente nelle foreste del Chiapas, nel sud-est del Messico, ma fino al 1854 parte del Guatemala. Cioè, era parte del Guatemala, credevo che parte fosse il verbo partiva, pensavo me lo sono messo. 349-238-6666. Paolo dice: Franco De Andrea, un grande, viva il jazz che rappresenta i tortuosi percorsi dell'esistenza. Qua ci sono quei 4-5 jazzisti all'ascolto che sono tutti ringalluzziti, visto che mi chiedono anche di nuovo il nome. Allora, Stefano D'Andrea è l'amico, la persona che lavora con me e gli altri a questo programma. Franco D'Andrea è il suo babbo e trovate un sacco di roba che lui ha composto, sia su YouTube oppure, insomma, comprate un disco nei negozi di disco oppure cercate sul suo sito 800240024 oppure 349-238-6666. Come sarebbe cambiata la mia vita se non avessi lasciato quel lavoro per guadagnare di più? Oggi non sarei quasi in mezzo alla strada con moglie ed una figlia. Alessandro, ripensaci. Se avessi accettato di gestire i negozi di Intimissimi, oddio, ho già paura. Se avessi accettato di gestire i negozi di Intimissimi, uguale troppe donne, non avrei una moglie e due figli. Amo la vita, soprattutto la mia. Oh, bene, già temevo qualcosa di terribile. Se fossi rimasto in Inghilterra a 16 anni, avessi studiato là e fatto l'università là, invece che tornarmene nella mia Italietta, credo avrei studiato economia e avrei un lavoro ben pagato. Forse sarei sposato con un'inglesona. Invece sono in Italia, ho studiato psicologia, non ho un lavoro decente, mi diverto a fare il DJ. Il problema è che non so cosa sia meglio o peggio. Effettivamente, l'immagine dell'inglesona non è proprio un granché. Se avessi accettato quel lavoro sarei già divorziato, invece non l'ho accettato, mi sono lasciato prima di sposarmi. Lucio, se non avessi mai iniziato ad ascoltarti, aia, se non avessi mai iniziato ad ascoltarti non sarei dallo psicologo per capire chi sono e cosa voglio fare. Fabio, non ho capito se questo è un bene oppure no. L'ultimo messaggio prima della borsa: se avessi accettato un certo lavoro un anno fa, ora sarei manager per un'azienda di trasporti. Sono un felice operatore di distributori automatici e quasi scrittore. Mirko, olè! Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella fotografia siamo nel deserto, direi. Direi perché non c'è la tipica immagine che ci si aspetta quando ci si aspetta il deserto, non ci sono le dune. C'è però, per terra c'è sabbia e i colori del cielo sono molto azzurri, ma soprattutto c'è una costruzione che è a metà tra una pagoda e una costruzione in fango, direi, sembrerebbe. Con un cartello, credo sia una costruzione che è tipo un segnale stradale. Allora, c'è un grande cartello con una scritta, la scritta fatta tutta a mano con delle mattonelle porta questo nome, Zagoras, direi, o Zagora. Zagora, credo, prima in caratteri leggibili, quindi nei nostri, e poi in caratteri arabi. E sotto invece c'è un grande cartello disegnato a mano con lì sì delle dune, un deserto, dei cammelli, delle palme e un cammelliere, e poi una freccia che indica a sinistra e la scritta Tombuctù 52 giorni. Immagino 52 giorni di cammello. E sulla destra c'è il protagonista della nostra foto. È un ragazzo, un ragazzone direi, con la sua moto, che è una BMW, credo un 1200 GS, nero, fierissimo, stracarico, che guarda nell'obiettivo. Massimiliano Mosca, 33 anni. Avevo un sogno: arrivare nel sud del Marocco in moto, senza organizzazione, senza prenotazioni. Solo partire e andare a sud. Ci sono arrivato. Eccomi a Zagora, con la faccia da ebete, felice, e davanti a un cartello che indica la distanza per arrivare a Timbuktu a dorso di cammello. Io sono qui. Avevo capito allora, eh? Avevo capito che era 52 giorni a dorso di cammello fino a Timbuktu. Grazie mille Massimiliano. 800240024 349-238-6666. La foto, vi ricordo, potete andare a vederla come al solito sul sito radio24.it, alla pagina di Io Sono Qui. La trovate abbastanza facilmente. Di solito c'è una foto col mio faccione sull'home page e da lì ricavate la pagina di Io Sono Qui. Leggiamo un po' di messaggi invece a proposito di come sarebbe andata se chissà se mi fossi fatto convincere dall'allenatore della Beretti, una squadra di serie C1, a fare il libero invece che volere fare la punta. A me è capitato esattamente quando ho fatto il provino per giocare nella S Romentinese. Sono arrivato lì e l'allenatore che mi faceva fare due tiri mi ha detto: ma tu dove vorresti giocare? E io volevo giocare punta, però preso da non so quale strano malessere gli ho detto: ma il difensore. l'opposto proprio. È come dire: dove andiamo in vacanza quest'estate? E tu vorresti andare al mare? In montagna. E io per una vita ho giocato difensore di fascia centrale e poi al massimo mediano di spinta, toh, una roba tipo Cambiasso, direi, per citarne uno a caso. Ho lasciato il Padova Calcio, mi avevano già preso e giocavo titolare. Ora faccio il camionista, ma sono felice lo stesso. Nel 1977 mio padre mi prese un appuntamento con un suo amico direttore di banca per un lavoro in banca. Io invece sono uscito con il grande amore della mia vita. Ora sono un ex metalmeccanico e vivo da solo in campagna. Quindi niente amore e niente lavoro. 800240024 349-238-6666. Andiamo a sentire Roberto da Varese. Pronto, Roberto? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Raccontami come sarebbe nata la tua vita se... Ma guarda, ce ne sono talmente tante di sliding doors nella mia vita che ho scelto la cosa ne basta più una. Sì, ne basta una. Era il 1988, io facevo il pubblicitario, sì. e ho fatto il filo per mesi a un'azienda italiana, la più grande azienda italiana dopo la Fiat, diciamo così, per entrare nel suo settore pubblicitario con un ruolo anche di responsabilità. Sono riuscito ad agganciare delle persone, sono riuscito ad ottenere un colloquio, sono riuscito a far andare bene il colloquio, per cui mi avevano preso e dovevo solo andare a firmare il contratto, perché c'erano dei dettagli sullo stipendio, sì, eccetera, da risolvere. Il mattino stesso in cui, del giorno in cui nel pomeriggio avrei dovuto andare a firmare il contratto, io ero nella mia agenzia a lavorare, sono andato a bere il caffè, ho comprato il giornale, sono uscito dal bar e, attraversando la strada, una macchina mi ha, come dire, quasi investito. Sì. Io ho reagito in malo modo e da dentro la macchina vedevo una signora che mi faceva dei cenni che io interpretavo come cenni di attacco, mentre in realtà ho capito dopo erano cenni di scuse e di saluto, perché al volante della macchina c'era la signora che il giorno prima mi aveva assunto e c'era questa direttrice di questa agenzia interna di questa azienda italiana. E come è finita, scusami Roberto? È finita che io l'ho mandata diverse L'hai volte là? Di conoscerla, l'ho mandata là diverse volte, mentre lei, poi ho capito dopo, cercava di farsi riconoscere. Certo. È finita che lei è partita, mi ha lasciato, poi l'ho riconosciuta e sono rimasto talmente attonito che non ho avuto la forza di dire nulla. È arrivato il semaforo verde, lei è partita, io sono rimasto lì. Naturalmente non sono mai più stato richiamato, il contratto senza la mia firma giace ancora in qualche cassetto. Senti Roberto, cosa hai fatto poi della tua vita? Io ho fatto tutt'altro, perché poi ho smesso di fare pubblicitario, adesso lavoro nella grande distribuzione e se però fossi andato a bere il caffè 5 minuti prima o 5 minuti dopo quel giorno, certamente adesso farei delle altre cose. Immagino. E penso anche che sarebbero cose più interessanti, più belle, più divertenti. Questo però non lo potremo mai sapere, Roberto. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao Matteo, se 7 anni fa non andai a vivere da solo, quindi se 7 anni fa non fossi andato a vivere da solo, ora non parlerei più con mia mamma. Invece la lontananza ci ha uniti. 800240024, andiamo a Pisa da Alessandro. Pronto Alessandro? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Ciao. Raccontami tutto. Beh, niente, adesso sto andando alla stazione per recarmi a Roma. Sì. E poi da Roma parto con la mia fidanzata, andiamo a Londra. E questo ha a che fare con come sarebbe cambiata la mia vita se? Sì, perché lei la conoscevo già da tempo, però lei sta a Palermo, io sto a Pisa. Sì. Ci sentivamo ogni tanto così in chat, però sì. Poi un giorno ho vinto il timore, il panico, non lo so. E le ho confessato, insomma, che in quel periodo stavo pensando molto a lei. Se non l'avessi fatto, probabilmente non sarebbe successo niente. Immagino. Senti, a che ora partite per Londra? Partiamo domani, perché stasera ci fermiamo da un'amica a Roma. Magari se ci vediamo, se vuoi. Guarda, noi abbiamo il tuo numero, ci fai sapere com'è andata. Come sarebbe andata se non avessi preso quell'aereo. Grazie mille, buona giornata. Vabbè, ciao Alessandro. Grazie. Prima invece mi è arrivato un messaggio che diceva: se non avessi scelto di fare il liceo classico, ora sarei sdraiata sul divano ad oziare. E il fatto che usi la parola oziare vuol dire che sta facendo veramente il liceo classico. Invece di versionare tutto il giorno. Bye Martina. Pronto Martina? Sì. Allora, sono qua. Benissimo, io sono qua, anzi io sono qui, quindi dimmi che quanti anni hai innanzitutto? 15. Hai 15 anni, e che versioni stai facendo? Ho appena finito una versione di greco, devo iniziare latino. Cioè, hai versioni tutti i giorni, Martina? Sì. Senti, ma tu cosa avresti voluto fare quindi invece che liceo classico? No, volevo fare il liceo classico. Ah, ok. Però, non lo so, alcune volte penso chi me l'ha fatto fare. Perché tu sei sicura che c'è qualcuno che non ha fatto liceo classico che invece sta a doziare sul divano? Sì. Secondo me tutti quelli che non fanno liceo classico stanno a doziare sul divano. Perfetto, sì. Martina, l'ultima cosa, visto che si parla del passato, parliamo del futuro. Che cosa farai dopo il liceo classico? Boh, non ho più pallida idea. Benissimo. Penso giurisprudenza. Non è che poi però tra 3 anni siamo qui di nuovo a dire se non avessi fatto giurisprudenza potrei doziare sul divano e invece sono qua a imparare tutto il diritto? No, penso di no. Ultima cosa, tu ascolti sempre Radio 24, Martina? Non ho capito. Ascolti sempre Radio 24? Sì. Bravissima. Martina, buona giornata e buona versione. Ok, grazie. Ciao, grazie. E mentre pensavo a questa questione del come sarebbe cambiata la mia vita se... ci ho pensato anche leggendo un messaggio di Rosana che mi ha scritto... È uno dei pochissimi se che mi faccio una volta all'anno. Se la notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 a Firenze un mal di testa fortissimo non mi avesse obbligato ad andare via a 00:30 dalla gelateria in Porta Sant'Maria... Davanti a via Lambertesca, cosa sarebbe successo oggi? La notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993, perché non se lo ricordasse, a Firenze era stata fatta esplodere un fiorino e quella fu ricordata come la strage di via dei Georgofili. Però a proposito di questa cosa dell'avere consapevolezza di sé e del sapere esattamente dove si è, mi è venuto in mente un pezzo di un discorso che David Foster Wallace ha fatto alla cerimonia delle lauree al Kenyon College nell'Ohio il 21 maggio del 2005. Sapete che ho questa fissazione per Foster Wallace e quindi ve la tenete. Ha a che fare con l'educazione, con l'imparare a pensare e con l'avere consapevolezza sul dove si è. E comincia così. Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano che nuotando in direzione opposta fa loro un cenno di saluto e poi dice «Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua?». I due giovani pesci continuano a nuotare per un po' e poi uno dei due guarda l'altro e gli chiede «Ma cosa diavolo è l'acqua?». Il succo della storia dei pesci è solamente che spesso le più ovvie e importanti realtà sono quelle più difficili da vedere di cui parlare. Espresso in linguaggio ordinario, naturalmente diventa subito un luogo comune, ma il fatto è che nella trincea quotidiana in cui si risolve l'esistenza degli adulti, i banali luoghi comuni possono essere questioni di vita o di morte. O meglio, è questo ciò che vorrei cercare di farvi capire in questa piacevole mattinata di sole. Questo credo sia la libertà, data da una vera educazione, ed è poter imparare ad essere ben adattati. Voi potrete decidere con coscienza che cosa ha significato e che cosa non lo ha. Potrete scegliere in che cosa volete credere. La verità con la V maiuscola riguarda la vita prima della morte. La verità riguarda il volere e il valore reale di una vera istruzione. E ha molto a che fare con la semplice consapevolezza di che cosa è reale ed essenziale, che è ben nascosto, ma in piena vista davanti a noi, in ogni momento. Per cui non dobbiamo smettere di ricordarci più e più volte, questa è l'acqua, questa è l'acqua, questa è l'acqua. È straordinariamente difficile da fare, rimanere coscienti e consapevoli nel mondo adulto, in ogni momento. Questo vuol dire che anche un altro dei grandi luoghi comuni finisce per rivelarsi vero, la vostra educazione. È realmente un lavoro che dura tutta la vita e comincia ora. Auguro a tutti voi una grossa dose di fortuna.